giovane Mario siede sul divano, un sito di incontri gli tende la mano, la madre gli urla ma ti sposerai, il vizio del poker ora online, una laurea buttata chissà dove, un futuro perduto chissà come. Cosa farò martedì? Lo scoprirò mercoledì. Mario vuole essere libero da ogni corruzione. Mario vuole essere libero da ogni perdizione. Mario vuole essere libero da ogni distrazione. Di essere un fallito. Mario vuole essere libero da ogni malaffitta. Mario vuole essere libero da ogni via d'uscita. Perché Mario siamo noi. La mano su un album di foto, sono passati 30 anni da quando era bimbo, aveva le orecchie grosse come Dumbo, ma resta a terra fisso come piombo. Crescendo mica ha imparato a volare, ma vive bene a livello del mare. Sogna la neve il 31 d'agosto, fare il bagno in mezzo all'inchiostro. Mario vuole essere libero da ogni corruzione. Mario vuole essere libero da ogni perdizione. Mario vuole essere libero da ogni distrazione. Di essere un fallito. Libero da ogni aspettativa. Mario vuole essere libero. Mario vuole essere libero da ogni via d'uscita. Perché Mario siamo noi. Cerca la felicità. Sogna la libertà, quella vera, cerca la felicità. Fino a sera sogna la libertà. Mario vuole essere libero da ogni corruzione. Mario vuole essere libero da ogni perdizione. Mario vuole essere libero da ogni distrazione. Di essere un fallito. Mario vuole essere libero da ogni malavita. Mario vuole essere libero da ogni via d'uscita. Perché Mario siamo noi.